a me piace un qualcosa di più moderno, anche un Ducato, però nuovo, un Ducato nuovo, perché sai che io visto come possono piacere a me, vengono anche nel 25, le 8.000 euro, e al momento è una cosa impossibile per me, però a me il camper è sempre piaciuto, avevo la Rulò, che avevo un'Adria era 7,20 metri a ralla, aveva sui vetri 10 di cellula, a doppio asse, era nuova, era bella, nuova, no, non era modello zingaresco, era nuova, devo pagare tanto un bel po', devo pagare tanto un bel po' di cellula, poi l'avevamo venduta perché col lavoro non riuscivo a fare niente, quindi non era una cosa che non era usata, abbiamo usato nel tasso, per due volte, ma si è venduta e l'abbiamo monetizzata, perché se non la usi, se non c'è tempo, così ne vengo. Poi hanno iniziato a mettere gli invieti di campetti, tutto pure, però il camper è già diverso. E vabbè, quello che c'ho io, cioè che c'ha lì, non è il mio, è il suo. E perché ho trovato il camper del 1998, però è tenuto abbastanza bene, non è messo male, dai. Però io li ho visti giù a Ottava dei camper, stanno facendo pensiero, sono andato a vederli. Io ho visto uno 35.000, 40, 60.000 euro. No, ma è una cosa che è molto, che non è proporzionata a, diciamo, alle mie tasche. Cioè, se uno si vuole mettere una razza, una cosa, che va bene, sta benissimo. Massimo che uno si può mettere sono a pagare quelle 160, 180 euro al mese. Cioè, non, se tu devi pensare che noi ti metti una razza a 180 euro al mese, te la metti per 7-8 anni, e non è che puoi comprare già un camper di 20 anni con una razza per altri 10 anni, quindi per lui hai già una cosa di 30 anni di età che prima o poi ti darà problemi e devi spendere sia la razza sia il soldi per metterla a posto. Infatti tu la penso così, il conto che mi faccio è quello, sono qui. A trapasso provate a andare. Aspetta, ma che caro trapasso, fa caridare. No, già, trapasso è una cosa che no, bisogna andare in continente a prendere quella roba lì, tramite magari amici, conoscenti, che c'hai su, camperisti, che io qualche amico ce l'ho, e qualcosa la si è trovata, però è un casino, perché già, lui inizia a avere già 3 mesi assicurati, 3 mesi di tua proprietà, e sono 3 bolli, e sono 3 assicurazioni, ed è quello, che sono spese. Vabbè, si paga poco di bollo per il camper, non si paga tanto, si paga pochissimo. Me lo stava dicendo una platamona che viene sempre tutte le estate, si fermano lì alla rotonda, si fanno le chiacchierate, si mettono il tavolino fuori dal marciapiede, barili il padrone. E stavo parlando perché ero fermo col cane, sono avvicinati e stavamo parlando e mi ha detto il rimbollo si paga pochissimo, 14 o 15 euro, una cosa del genere. Sì, però già è poco di tutto, il poco di tutto ti va a dare a pure a terra. E ognuno deve fare i conti secondo le sue tasche, prima ci sono le priorità, c'è la famiglia, c'è tutto il resto. Poi se puoi metti qualcosa da parte, quando ce li hai lo prendi. Però i camper, se tu vai a comprarlo nuovo, costano anche 100 euro, 100.000 euro, non 100 euro, cazzo, 100 euro sarebbe bene. Sì, ma infatti la cosa è trovare un buon usato e non dico che sia all'ultimo urlo, però è qualcosa anche di accettabile, che se vuoi andare a qualche campeggio non sa, puoi andare tranquillamente. Cioè non è che puoi andare in un campeggio a attaccare tutte le trocce, non mi seguo, tutti i denti, tutte facendo, con tutte le trocce, ormai a Lombardini, comunque tutte le trocce a Lombardini a 5 kg, va che mi scelta negli Stati Uniti una bomba d'anieta, paccare dai. No, deve avere una cosa, dai, pannelli, deve avere una cosa organizzata. Sì, quello sì, in effetti bisognerebbe prendere un buon usato, trattato bene, ma ce n'è uno vicino a casa che c'ha un Ducato vecchio tipo, ma tu devi vedere come tiene questo camper, è lucido, sta sempre anche d'inverno, entra dentro, lo pulisce, lo fa, lo ama proprio questo camper, addirittura c'è scritto il suo nome. Sì, ma quando è così sono tutti bene. Oh, attenzione che con motore 2005 turbo diesel Ducato sono indistruttibili, quindi sono in molto gore, molto la rosa vecchia argenta, che hanno 120 cavalli, 110 cavalli mi sembra, ma sono motori che fanno 600-700 mila chilometri, non muoiono mai. Però il camper è anche una cosa che uno dice, noi devo andare a dormire, però è anche bello fare belle figure davanti agli altri, perché il camper è una cosa di uso, e quando uno ha una cosa di uso la vuole anche far vedere, e la vuole fare il meglio possibile, sì. E viene etichettato in base a come ce l'hai, dice questo c'è su di questo non ce l'ha, capito? Viene etichettato anche lì, inconsciamente ti etichettano. Sì, vabbè, ma io avevo un amico che aveva un 238 camper, 238 con impianto a gas, tutto quanto l'hanno dovuto vendere per comprarsi la casa, perché la casa popolare che le avevano dato la notte bussava la polizia, aprite questo e quell'altro, facevano le arrestate, sbagliavano, cazzo, bussavano a casa loro, li svegliavano di notte, soprassata, alla fine sono tutti le scatole, i bambini si spaventavano e cosa, e niente, hanno lasciato una casa popolare, si hanno comprato una casa decente, dai. E quindi l'hanno dovuto vedere, ma dice che sta ancora piangendo, ed era un 238 che praticamente era tipo vecchio, quello che vuoi, però intanto per loro c'avevano veranda, c'avevano tutto quanto, c'avevano tanti amici, dice che avevano conosciuto, mangiavano tutti insieme, socializzavano, dice che era una cosa bellissima, facevano i giochi tutti insieme al mare, coso, e stavano bene, poi ci sono svegliati e trovati il mare di fronte, è troppo bello. Sì, è bello, tanto fa bene, io mi prenderei, mi porterei i cani, mi porterei la bambina, dai, fare tante cose in un clima diverso, con i cani, con la famiglia, con gli amici, è una cosa bella, questo sì, va bene, al momento non si può, vai Franco. Questo è l'infatti. A me piace quello tipo Pullman, è costato 230.000 euro, quello già è un camper diciamo un po' discreto, dai. È un salotto dentro, c'è tutto. Quelli che c'hanno quelli in una parte. Io sono entrato in quelli lì, perché era amico di Massimo Matera, quindi ti puoi immaginare se sono entrato. Sono saluti, non si capisce manco che sia un camper, sembra una casa arredata, è bellissimo dentro, niente da dire, ma quelli costano un po' di soldi. Ma comunque la roulotte è bella, ha anche delle prerogative la roulotte, la puoi staccare, andare in giro in macchina e poi ritornare e non stare con la roulotte attaccata, mentre invece il camper è diciamo occupa spazio, si deve trovare il parcheggio, questo e quell'altro, ci sono i pro e i contro, il camper è bello, però non lo so se riuscirei a dormire, io nella roulotte non ci sono riuscito, praticamente un periodo dove facevo servizio ambulanza ci avevano fatto sloggiare perché dovevano mettere a posto tutta la sede e quindi avevamo preso una roulotte di un amico e avevamo messo tutto l'attacco telefonico, tutto quanto, avevamo fatto come passare i fili dalla sede sino alla... e dormivamo lì quando facevamo il notturno, io non sono mai riuscito a dormire, non c'è più nessuno. Quello è una cosa per un campeggio da giorni, magari è una cosa più, è una cosa di te, è una cosa di te. Il problema sta anche ogni anno ci vuole la manutenzione, finalizzarlo, ti basta un'infiltrazione d'acqua, devi fare di nuovo la cellula, è un casino. Sul campo è consumato perché noi l'abbiamo carico. E vivo più laggiù, non lo so se sarà stato mai appuntato, non lo so, però sarebbe bene. Sì, capi, volevo un po' te, dicevi, diciamo che per me non è mai stata una cosa necessaria, dai. Invece la mia compagna le piace, lo voleva comprare il camper. E lei poteva anche farlo, però io non lo so, non troppa manutenzione, come dici tu, ci devi stare molto sopra, io non aggiungo più gana, a me non aggiungo più gana. Poi ti ripeto, il campeggio, la volta che abbiamo fatto il campeggio con amiche e roba del genere, io di notte mi sono alzato e sono andato a fare pesca subacquea la mattina, quando loro si sono alzati hanno trovato tutto il pesce, i pulpi, tutto quanto, visto che ho imbigliato. Sì, sì, perché tu il campeggio se rimane una notte, per esempio, non dormi neanche, perché basta che ti metti una tenda e dormi in tenda. Tanto che più che altro se vuoi andare a fare il giro, per fare Sardegna, dove ti fermi, oppure dove ti fermi, non è che ti puoi fermare col campo, già se tu devi stare a pure si devi fermare. Quindi è un po' un problema. Prima c'era, adesso ci sono solo le aree per i camper, paghi e sei tranquillo, però c'hanno tutto, c'hanno servizi, c'hanno bar, c'hanno tutto quanto, arrostiscono, fanno le aree di camper, però devi pagare, e quelle sono sempre spese. Eh beh, un proprietario di camper mi sembra si paga 25 euro al giorno, sono meno 20-25 euro al giorno mi sembra si paga. E ti danno la luce e così, capito? Quindi ci sono i bar e la roba costa 5 volte tanto, tutte queste cose. Vabbè, le comunità ci sono per chi ha i soldi, per chi ha molti soldi, vabbè. Ma mi sembra che poi i soldi stiano scarseggiando, anche col campere. Quindi qua potrei mettere il tatto ci vuole fresco, potrei mettere una cucina nel furgone, un letto, li porto in giro con il furgone. Adesso lo stai dicendo scherzando, da noi c'era un autotrasportatore che veniva e praticamente quando si prendeva le ferie in agosto ci aveva trasformato il furgone in un camper, praticamente ci aveva tutto quanto a portata di mano, faceva altro che piazzare la roba e lui per tutto il mese di agosto si faceva le ferie col furgone. Sì, a parte quello che fanno il reso, in altre Italia. Alcuni li hanno i camion, dove ricaricano la strumentazione, i loro cargo, adibito a camper, ne hanno uno per portare la strumentazione e l'altro per camper, e lo puoi fare, lo puoi adibire al camper il 75 quintale. In questo è il tuo furgone, ma era un camion, era un camion grande, però era centinato, capito? Quindi aveva fatto proprio un bel lavoro. Poco fa tu mi hai nominato a Massimo Mazzera, ma ci hai mai fatto caso del gruppo elettrogeno che hanno le giostre? La marca, hai mai fatto caso? Di quanti kilowatt è? No, la marca non l'ho mai guardata, però mi ricordo che era un camion che aveva il rimorchio, che aveva questo cazzo di motore enorme. Rolls Royce, hanno i motori in becco, Alfa, e i generatori, diciamo la V20 è Rolls Royce. Fatti un conto, vabbè. Io ero molto amico di Massimo, anche tu mi conoscevo, molte volte ci ho mangiato anche le carrozzone, ci ho lavorato io alla giostra, quando veniva vicino a casa io ci avevo la rotta panoramica, la gestivo io, quindi stavo ai dischi volanti, all'autoscontro, poi il signor Bertino mi aveva fatto andare la rotta panoramica e la gestivo io, c'avevo cassa, la facevo partire, la fermavo, facevo tutto io. Sì. Quello lì, il gruppo è 250 kW. 250 kW motori, sono due motori, sono un rimorchio da 13 metri. C'è proprio la marca, perché io sono appassionato di queste cose, le guardo. motore di Aisco, motore di 190 sotto, cioè motore di 190 a 42, 48, sono 6 cilindri, non gli 8, no, bugia, sono gli 8 cilindri e 420 cavalli, l'uno, non 480, 420, e hanno il generatore di corrente, diciamo gli avvolgimenti, il, diciamo, il magneto, o Rolls-Royce, un gruppo quello da 40 anni, sì. 40 anni secondo me quel gruppo ce li ha. Eh beh, c'è tanto, veniva vicino a casa prima, e io conoscevo tutti, conoscevo Signor Bertino, il nonno di Massimo che stava ai dischi volanti, poi conoscevo Signor Luciano che adesso è morto, il padre, la madre, tutti quanti, le sorelle. Sì, io conosco molto bene Corrado, io conosco molto bene Corrado e Massimo. Massimo è venuto anche a casa qualche volta qua a prendere e a riparare delle luci, a riparargli delle luci, delle questioni del senso del cappello delle strette. Corrado gli ha fatto la volta in attenzione all'impianto, l'ha capito volante, l'impianto gli ha capito volante, di mettere autoparlantini, perché intanto hanno questa norma adesso ad Agora, addirittura c'è questo comitato del 30 decibel, questa cosa che mi fa capire, questo comitato delle persone che hanno fatto questa cosa, perché la musica non rispetta il 30 decibel, sì, cioè neanche un battito di mani che fa. Adesso ci sono queste leggi che ti bloccano tutto il lavoro, tutto quanto. Io adesso li ho presi di vista tutti, Massimo non so che fine abbia fatto, Toni nemmeno, adesso sono me che non li vedo, però stavamo sempre insieme, capito? Stavamo sempre insieme. E niente, dai, abbiamo avuto anche le ragazzine insieme con Massimo, figurati. C'era quella del tirabarattoli che c'erano, però praticamente c'erano uniti a loro, non era della di Materna, c'erano uniti a loro questi per il tirabarattoli, e io stavo con la figlia, e Massimo con la sorella. E Radio Materland l'ho conosciuta? Sì. Paravano alla CD, paravano alla Radio CD, era Radio Materland. No, la mettevano tipo radio, una radio libera era. Ah, non era una radio CD? No, radio libera, trasmettevano proprio Radio Materland. Corrado trasmetteva. Corrado è praticamente il cognato di Massimo, è il marito della sorella, di quella bionda. Sì. Già lo so, già sono anche andato io a casa di Corrado, ho fatto. Sono anche andato a casa di Corrado, ho fatto. Corrado per vecchiano anche lui, Allora, io l'ho conosciuto giovane, proprio a Corrado. Vabbè, meglio vecchiare, Gabi, meglio vecchiare, avanti fra, tu mi hai fatto tre leggi di giostra, io c'avevo la chiave sia dell'autoscontro, me la portavo a casa, e sia di schivolato. Io l'avevo costruita la chiavetta. No, io ce l'avevo proprio a me, non mi faceva nulla perché io ci lavoravo, parcheggiavo le macchine dell'autoscontro, stavo sui dischi volanti, ritiravo da vincitori quando vincevano. E avevo fatto il gettone, l'avevo bucato con un pezzo di lenza, quando scattavo lo tiravo su. Un po' difficile a me mai, perché quando ti su c'ho delle due linguette che lo bloccano. No, lo tiravo su tranquillamente. Vabbè, forse nei vecchi dischi volanti. Poi nei dischi volanti si va bene, vincevo sempre. Un giorno siamo andati con mia moglie e mio figlio, prendo e salgo sui dischi volanti, qui non è burdazza, e sono stato con mio figlio tutta la sera, lì stava rompendo le palle, ho detto basta adesso, io scendente, l'abbiamo visto un minimo. E boh, se ti domandava la cabina ti faceva 20 piedi. No, assolutamente. Allora, il trucco per vincere con i dischi volanti è all'ultimo ottenere la leva passata, poi quando quello lì crede di aver vinto, tu alzi la leva e lo mitragli in un ampio interno. Ma va. Così è. C'è il trucco. Questo non lo sapevo. Io sapevo solo di come si giocava all'autoscontro con la cintola. Cosa? Che all'autoscontro noi andavamo a giocare con le cintole, ci cruzavamo. Oh yeah. E all'autoscontro uno di noi ha già attaccato la pedana e l'ha già stato una macchina. Non ci sono più frontali. I ragazzini non sono più buoni a fare neanche quello. Ma nel tuo scopo ti facevi male, a volte ti sbattivi, la testa alla, diciamo, al palo che c'ha. Infatti dico a tutti quanti, se vuoi la macchina d'autoscontro quando ti vedo volante meno. Ormai ragazzi, la radio. No, non è interessato, da piccolo parlava, da piccolo salutava, entrava, mia Marcolino, mi tutti quanti, mia Marcolino, Vittino se lo ricorda perché entrava piccolino. No, non è interessata più di tanto la radio. Da piccolo sì, ma poi non gli piace manco quando l'attacca in macchina che sono con lui. Ma si vergogna. No, non è che si vergogna, proprio non li piace. Non riesce. Allora, mio figlio è dell'era dei computer, quindi lui sta molto al computer, capito? Stamattina ho piazzato, stamattina sono andato a smontare un mobile. Ho smontato un mobile, ho piazzato, sapete che non ho smontato uno, l'hanno portato da Portobello perché doveva venderlo. Qui ho preso, sono andato a smontare un altro e ha ripiazzato, questo padre. Il secondo era allucinato. Era un mobile, boom. Secondo me sono pazzi, cose così. Poi i mobili sono fatti, si perdono incazzate, con le viti, con queste cose, si perdono le fesserie proprio. Sì, sì, con le cugnettine, con le cose, con le vitizzane, con i cassellini. Tutto perché? Perché sono mobili fatti in bruciolato. Sono tutti mobili in bruciolato. Riprendi Franco, riprendi. Dai, io riprendo e vi saluto perché mi sto dormendo. Ciao Gianni, ciao Gabino, dai, ce la riascolta domani sera se coincide. Ciao Gia, buonanotte a tutti e due, dai. A domani. Ciao. Ciao, ciao Fra, buonanotte, dai. Gabino, te paghi, se tu domani a lavoro devi andare. Ciao Franco, dai, buonanotte. Dai, tutto positivo. La radio comunque va bene, non ti preoccupare, non ci sono problemi, perché io ti ascolto bene qua nella mia posizione. Sì, sì, già, una mattina lavoro, e uscirò tante tardi domani sera. Non ce la finirò anche tardi. E vado però, io come finito, sono arrivato a casa già accendo. È tranquillo, sì, a questa radio dove ti sto arrivando. Sì, sì, ci siamo proprio lì. Ok, mi ricordo che sia comprensibile se c'è la radio, capito? Del segnale non mi interessa, poi che c'è la radio bella forte, del c'è forte, della presente. Sì, domani io sono prima a Muro, a Porto Torre, se tu di nuovo a Porto Torre, e non so se devo andare all'alghero ogni sera verso qua, però non ho fatto ancora sapere niente. Per il momento ho Muro, Porto Torre e Porto Torre e niente, speriamo di non finire. Vabbè, già è vicino, dai, non è tanto lontano, dai. Peggio quando ci devi uscire fuori, oia, quando vai a piazzare il parco, oia, quello lì sì che è peggio, che poi devi finire, non si sta a vivere. quello fai anche 24-28 ore, fai. Cioè, quest'estate io ho fatto anche giornate di 4 giorni. Ho fatto giornate di 4 giorni anche quest'estate, lavandomi sotto il furgone, scherzando, lavandomi sotto il furgone, buttando. Le piattuole, in ciabatte facevano la luce, lo dicono là. Quello lì è il, allora quello è una parte dello spettacolo, no? Meno riconosciuto. Quella è l'ombra dello spettacolo. Nessuno ti riconosce, nessuno ti vede, nessuno, tu non hai, tu non sei nessuno. Pensare che fanno lo spettacolo grazie a te. Io lo sai che ci penso sempre a questa cosa, no, ma molte volte lo dicono, le luci, lo staff, eccetera, eccetera, a volte lo dicono e fanno, presentano anche chi ha piazzato tutto. Sì, a volte. Uno spettacolo si dice, uno spettacolo si dice. Nessuno, e quando fai del bene non ti cercano e quando fai male fai sempre più. Sì. Ma guai se va male qualcosa, non funziona, gruppo elettrogeno, come è successo a Portotto, tutti i gendarmi, ragazzi, bello spettacolo, hanno fatto brutta figura a Burgo con Ivana Spagna, perché ha detto ma di solito i tecnici sono bravi, questo staff, boh, non lo so cosa sia successo, o mancava il video, mancava l'audio, un casino, qua. Per due volte sono andato all'attore aragonese a vedere gli spettacoli, per due volte hanno fatto il cilecca. Sì, perché l'attore aragonese, perché professore c'è una piazza da mollare, professore c'è una piazza che non si può lavorare, capito? Perché con tutti i nitroelettrogeno da 60 kW, nessuno lo vuole noleggiare perché ci vuole un 5.000 euro di caparra più 1.000 euro di noleggio. E allora ti fanno, scusa, e allora ti fanno lavorare con quei kW che sono, diciamo che ha il contratto comune, che mi sembra che sono una ventina di kW. Però solo un impianto luci a LED, diciamo l'ultima generazione, per quanto possa consumare poco, sono sempre 20-25 kW di luci. L'audio sono altre 25 kW, altre facciamo 20 kW, eppure se c'è il LED sono altre 4 kW. Fate più conto, se può uscire uno spettacolo. Vabbè, è sempre limitato, dai. Vabbè, comunque, mi è piaciuto molto anche quelli che hanno cantato l'altra volta, è stato un bello spettacolo, dai. C'erano dei cantanti, hanno fatto quello spettacolo per devolvere i soldi per quella strage che era successa, che di quello che ha ammazzato i suicidi, la moglie fin di vita, insomma, hai capito chi? Sì, ho capito. No, noi a Portotorre ci abbiamo fatto, ce l'avamo quando con gli Stentales e Modena City Lambert, sempre la Torre Aragonese, però con tutto le droghe. Stentales e Modena City Lambert. Poi noi a Portotorre ci abbiamo fatto Gino Finardi, il Macchia Bazar, e Francesco Bacini. Quando ho fatto quel pezzo fa la balaia, c'era il Rama, c'era la Minura, poi il dottore Simentano, Piero Marra. Bene, Gabi, io ti saluto, sto chiudendo, dai, che è già tardi, sono disturbo. Ci sentiamo, buona serata, buon lavoro per domani, dai. Ia. Ciao Gianni, sentiamo. Ciao Gianni, cioè, buona serata a tutti gli ascoltatori. Buonanotte. Ciao Gabi, buonanotte.